la radio se viva al lago come un'onda antica, con le ciglia nere vere rondine in arrivo, 100 foglie come ali per poter fuggire, bianco il sogno, cigno nero nella mano. Dimmi puoi restare tra la veste e il velo, le mie ciglia rimano nel cielo. Dimmi puoi parlare bianco e nero ed amore nel mistero. Gli specchi e le domande, la pioggia d'aprile, tra carezze 100 gocce scivolò nel lago, 100 volte per chiamare, una per capire, scialle bianco tra le acque, cigno nero. Dimmi puoi tornare tra la veste e il cielo, le mie ciglia zucchero nel velo. Dimmi puoi unire